Ma sul piano tecnico non c'è dubbio che è un giocatore che ha fatto un salto importante, è cresciuto molto, il livello del campionato in cui sta giocando con la sua squadra è molto alto, e lui si vede anche dal rapporto che ha con i compagni, al di là di qualche, chiamiamolo, colpo di testa che ogni tanto ancora si concede, però è un giocatore che gode di una grande considerazione. E lo stesso discorso vale per la nazionale italiana. Direi tra l'altro anche molto più maturo nel rapporto con i media, con la stampa, no? Pronto insomma anche al dibattito. Ma mi sembra che stia crescendo, sì, mi sembra che stia crescendo, che abbia finalmente capito che di lui deve far parlare soltanto attraverso il campo, non tanto attraverso quelle mischierate che ogni tanto fa, diciamo così.